quale prossimerai. Carlo Luca. Ciao Carlo, beh. E adesso è acceso. Adesso vediamo se c'è qualcuno. E l'hai pulita la ventola. Sì, sì, ce l'ho pulita. E sarà proprio incrostata. Cioè stamattina che. Cioè mi viene male. Sì, era abbastanza incrostata. Abbastanza assai. Quella quando la pulisci bene penso che giri meglio anche. Se ci hai messo appena appena di qualche lubrificante, ma giusto una puntina piccola piccola d'olio proprio dove c'è il ferro della ventolina, capito, la fa girare meglio. No, no, io qui davvero non ne ha bisogno, l'ho provata, è silenziosa. Meglio così allora, quindi ho risolto il rumore allora. In pratica tutta la polvere che aspirano quelle apparecchiature quando sono accese, mamma mia, ce ne entra lì di polvere. Lo so, sì, proprio poi la stava aprendo il figlio, la stava manomettendo, là, diciamo. E niente, però non c'ero riuscito ad aprirla. Allora glielo aperta io, pulita, bene bene. E glielo chiusa bene e sei a posto. Per il momento penso che sia a posto, poi tu sei, non sei che rumori, fate il televisore. Forse male c'è la ventola dell'alimentatore. Sì, sento la TV e forse una ventola, però forse l'alimentatore è quella. Ah, adesso la ventola dell'alimentatore è spenta, aspetta. Vediamo. Senti qualcosa? La pliega è accesa? Qua ti metto anche il volume al massimo. Sento la TV, il sottofondo e poi il fruscio del rumore di fondo, capito, ma non si sente nessuna ventola. Stasera non ho avuto tempo ad entrare in radio, quindi non so neanche se è entrata propagazione. Ieri sera si sentiva la Puglia, Bari, Taranto, un sacco di località del sud, diciamo, e anche forte arrivava, no? Trani, poi non mi ricordo cos'altro, il paese di Domenico Modugno, che non mi ricordo cos'è, qualcosa a mare, stasera non lo so, però perché non c'ero, ero fuori Sassari e sono rientrato tardi. Io non lo so perché, come si dice, non lo so, perché non io sono arrivato adesso, stamattina c'ero, ma poi stamattina non ho fatto manco in tempo perché ho avuto un imprevisto. Poi sono messo anche a smontare questa roba qua, mi sono un po' incasinato e poi tocca attaccarlo, l'ho lasciato in stand-by. No, no, non ti preoccupare, tanto anch'io avevo un sacco di roba da fare. Infatti poi Antonio gli ho detto, tanto scusami un attimo, ho detto già rientro, già la lascia accesa la radio. Infatti poi ha visto che non mi doveva dire una cosa e mi ha fatto prima telefonarmi, capito? E ci siamo sentiti al telefono infatti. E poi tra uscire, fare spesa e una cosa e l'altra è passata la mattinata. Ho capito, capito, va meglio così, dai. Poi sembra che sia silenzioso, c'è da vedere. Oh, una bombetta, è una bombetta, c'è che faccio un rumore, ma molto piccolo, è silenziosissimo. Adesso la metto qua, poi la vuole domani viene, se la ritira. Ehi Carlo, è un amico, capito? Se no, quello lì lavora almeno da una quarantina, cinquantina di euro. Un bel po' di ore ci ho messo a pulirla. Poi l'ho ripiazzato, tutto qua. No, riprendo. faccio a prezzo da amico, mi sono fatto lavorare, non so, gliel'avrei fatto anche gratis. Beh, se ci hai lavorato, su, tanto se la porta l'assistenza, fassi fare quel lavoro. Solo per aprirgliela sono 30-40 euro, più la mano d'opera, quindi alla fine sono un bidirinà. Ah, poi ce l'hai 20 euro, così ci assassi, è meglio mi curita che la metà, da. E poi sto sistemando il telefono alla moglie, che display mi arriva martedì 24, siamo adesso, sì, martedì. Ho capito. Insomma, ogni tanto tu ti trovi gli appenti, da. Meglio così, qualcosa la fai almeno. Carlo, che Dio mi lascia la vista, anche se un po' scarseggiato, però che mi lasci le mani sane, lo faccio, poi quando non posso più non lo faccio più, pazienza. Io lo stesso, già ogni tanto già mi diletto a aggiustare, a fare. Io da poco mi si era rotto il microonde, l'abbiamo dovuto comprare nuovo, mia moglie, come fai qua e là, eccetera. L'ho comprato, però l'altro no, mi dispiaceva buttarlo perché era nuovo, ho detto, ma ho guardato su YouTube, ho visto un tutorial ed era lo stesso modello di forno a microonde della Whirlpool, modello MyChef, eccetera. Ho detto, ui cavolo, guarda, ed era il magnetron che si è rotto, quindi l'ho aperto e là nel tutorial ti diceva, una volta che lo apri stai attento, scollega il condensatore, perché se no prendi comunque una scossa anche forte, oppure se non lo vuoi scollegare lo devi scaricare, e ti diceva come scaricarlo col cacciavite, capito? Quindi l'ho messo in corto, l'ho scaricato, poi ho smontato questo magnetron, ho preso il numero di serie, ho fatto la foto e l'ho trovato su Amazon, mi è arrivato dopo 3-4 giorni, l'ho piazzato, ho chiuso tutto, ho rimesso tutto a posto, il forno è perfetto, come nuovo, capito? Adesso c'ho due forni a microonde. Vabbè, se vuoi fare beneficenza magari, c'è, non so se sei su Facebook anche, vuoi fare beneficenza, c'è un gruppo, a me non serve più, te lo regalo, se lo vuoi, tanto lo tieni, sai, lo puoi mettere in garage, lo conservi. Anzi, io adesso l'avrei fatto, il nuovo non l'avrei usato, l'avrei messo in garage, se non lo vuoi dare, e mi avrei continuato a usare il vecchio. Infatti praticamente cosa ho fatto? Nella scatola del nuovo, che ormai lo stavo già utilizzando, ci ho messo il vecchio che ci stava, capito? Ed è giù in garage, però è un imballo, capito? Perché è un forno a microonde anche abbastanza grande, capito? Quindi alla fine o lo regalo oppure non lo so se c'è qualcuno che ne ha necessità, capito? Sembra così, già fa comodo un forno che funziona bene. Ma cos'è, combinato? No, è un forno con, diciamo, col crisp, poi c'è la funzione defrost, microonde, insomma ci puoi cucinare, non è il forno microonde solamente, questo puoi anche cucinarci. Allora è combinato, come quello della mia compagna. A me mi hanno regalato uno nuovo, lo stesso, prodotto pulito, Dea, io come respiravo sto caro, non è veloce. Poi ti stavo dicendo, me ne ha regalato uno che era un vicino di casa, tu, se non ti offendi, nuovo mio, ma nuovo, solo che mamma non lo voleva, mamma c'ha solo il fornetto, quelli piccolini. E l'ho regalato a un parente, diciamo, ma nuovo, della Whirlpool, veramente nuovo, tutto quello pulito. Non dico che sembrava uscito dal negozio, comunque, era abbastanza nuovo, se lo sto usando. Se funziona gli dai una pulitina e via, e anziché spendere soldi usi un elettrodomestico buono, capito? Ho capito, sì. Vabbè, poi se consumano quelli di corrente, sembra che usi, se lo usi ogni giorno, tipo la mia compagna lo usa ogni giorno, lo usiamo a sbrinare, fare, capito, cucinare il pollo con le patate, tante cose facciamo lì. Poi vabbè, se devi fare altre cose tipo pizza, la pizza te la scongela, se vuoi te la cucina anche, però è più buona sempre al forno, il forno normale, quello elettrico. Sì, anche noi lo usiamo per cucinare, mia moglie ci fa di tutto, ci fa anche il sugo, 20 minuti il sugo è pronto, e poi niente, appunto se vuoi scongelare il pane oppure se ti vuoi fare una pizza surgelata, insomma qualsiasi cosa te la fa, eh. Se vuoi fare i fagiolini bolliti, c'è il contenitore, metti l'acqua sotto e te li fa lessi, belli asciutti, li levi che sono già belli che strizzati. No, sono diciamo, io li chiamo mezzi, quelli ti porta comunque, sono cose che aiutano molto. Se manca quello, tipo la mattina scaldare il latte, microonde, quello lì mi uso quello. Poi tante cose, tante, fare popcorn, magari devi fare un sugo e hai un pezzo di salsiccione congelato, un esempio, no? Mettilo, scongela, per scongelare adesso un hamburger, insomma, tante cose così. Puoi cucinare battoncini, sofficini, le patatine in forno, io le fritte le posso, cioè non le posso mangiare perché ho il problema che ho, poi c'è al forno già le posso mangiare. Cioè, sembra così, quando è roba veloce, e poi non lo fa buono, eh. No, già un sacco di cose, io addirittura d'inverno compro le castagne, le spacco, le metto a mollo un quarto d'ora, 20 minuti e poi le metto nella griglia, diciamo, c'è la teglietta, no, con funzione crisp, le lascio 10 minuti, tu devi vedere come le fa, sai cosa vuol dire? Perfette, perfette. Sì, sì, sì, e un po', Antonio ci sei, Pomponio ci sei, benissimo stasi da casa. Non credo ci sia nessuno, perché anch'io prima stavo chiamando, fischiando, eccetera, ho detto se c'è qualcuno vediamo, poi ho sentito a te che hai risposto al fischio, ma pensavo ci fosse altra gente, perché solitamente a volte c'è qualcuno dopo cena, ma staranno tutti guardando la TV. Io sto un altro pochettino e poi me ne vado a nanna, domani alle 5 devo essere in aeroporto, quindi mi sveglio alle 4 meno 10, mi butto dal letto praticamente e niente, alle 4.25 esco, in 5 minuti sono giù a Predanieta e alle 5 meno 10 sono ai parcheggi. Hai visto? Vabbè, calando poi chiudo, non è un problema, tranquillo. Tanto c'è un film carino alle 9:30 e non me lo voglio perdere, non lo voglio guardare, speriamo di non addormentarmi. Io mi guardo adesso lo stesso, perché sono le 9:20, mi corrico alle 10, da, però mi metto una puntata che ho registrata su di Sky, roba di sopravvivenza, non mi ricordo come si chiama, mi guardo una puntata che dura una mezz'ora e poi me ne vado a nanna. Ehi, quando poi chiudo non ti preoccupare, no... Non problem. Allora chiudo, Luca, ce la risentiamo domani, là se combina. Grazie del piccolo QSO, alle prossimine, buonanotte, buon film. Ciao Carlo, anche a te, saluto e alle prossime. Buon lavoro per domani, ciao. Grazie, ciao Luca, ci sentiamo, buonanotte.